versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 ed eccoci qui dopo le 16.30 dagli studi di Milano di Radio 24 in questo venerdì 29 di maggio 2015. Ve lo voglio dire subito perché è un problema che mi ha angosciato nelle ultime due ore. Le alternative oggi erano due. La prima, quella di stare sull'attualità politica e in vista delle elezioni regionali di domenica, inevitabilmente commentare la novità che sicuramente avrete appreso, cioè il fatto che è uscita la lista degli impresentabili redatta dalla Commissione Antimafia intorno a poco prima delle 15. E la novità è questa lista di impresentabili comprende anche il candidato presidente in campagna del PD centrosinistra, cioè De Luca. Però ve lo voglio dire, siccome non ho fatto apposta puntate politiche, perché durante la campagna elettorale sapete che c'è la par condicio, bisogna mettere uno di qua, uno di là, a questo punto avremmo dovuto mettere tutti i rappresentanti delle maggiori liste almeno della campagna, in mezz'ora non esiste, ho preso un'altra decisione. Mi limito a dire una sola cosa, rifletteteci, perché vi avevo avvisato che le sorprese sarebbero arrivate nelle ultime ore prima del voto. Ricordo a tutti che il Presidente del Consiglio ieri ha detto nella sua e-news mandata a tutti i sostenitori che questo dibattito gli sembrava surreale, perché si diceva letteralmente certo che nessuno degli impresentabili sarebbe stato comunque eletto. Voglio sapere adesso come si mette, visto che negli impresentabili c'è il candidato governatore, o meglio presidente della regione Campania del PD. Quindi saranno ore infernali e starà a voi capire come votare in Campania, non solo, anche in Puglia, perché è pieno di nomi, soprattutto campani e pugliesi, ma in Campania c'è questa cosa di un candidato presidente che era in testa nei sondaggi, che però se eletto decade, non dovrebbe avere il tempo di nominare il vice della giunta, cioè un caos istituzionale pazzesco. Quello che mi colpisce è questa anarchia istituzionale italiana, per cui ce ne si inventa sempre di nuove e poi alla fine si chiede a voi elettori di decidere come se niente fosse. Non so come farete in Campania, che decisione prenderete di fronte a un'incertezza di questo tipo. E ripeto, al netto di ciò che è legittimo che ciascuno di voi pensi sul fatto che i partiti continuano a candidare condannati. Invece oggi ci occupiamo di un tema di fondo del nostro paese, ma che mi evita la par condicio, a cui sono un po' alieno, e che invece è un tema che a me appassiona molto. Ne abbiamo spesso parlato perché si tratta dei privati e il patrimonio culturale dell'Italia. La notizia di oggi, forse qualcuno l'avrà letta, soprattutto se è a Roma, è che abbiamo trovato i basamenti di un nuovo Arco di Tito anche nel Circo Massimo, oltre a quello che è già noto nel complesso dei fori, e però dopo averli trovati e scavati bisogna ricoprirli, perché ovviamente mancano i mezzi, non ci sono i soldi, c'è una falda qua, eccetera eccetera. Allora, il punto è, come al solito, interrogarci sul fatto se sia fondata questa eterna contrapposizione che viene dal dibattito pubblico italiano tra chi dice che ci deve pensare solo lo Stato, più soldi allo Stato, viva lo Stato siamo noi, quindi deve essere lo Stato a fare tutto, oppure se di fronte al fatto che lo Stato non può fare tutto e non è affatto detto che lo faccia bene attraverso le sue strutture periferiche, le sovrintendenze e così via, bisogna ragionare in una maniera più equa. Qualcuno si ricorderà che mesi fa uscì in una intemperanza, per così dire, di cui mi scuso, ma insomma era un po' accaldato alla lettura di una specie di libro manifesto che è uscito nel 2014 da parte di Tommaso Montanari, il cui titolo era Istruzioni per l'uso del futuro, editore Minimum Fax, che è una specie del più tonitruante manifesto contro i privati per la tutela e la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale, che sia uscito in Italia da anni, con una visione molto ideologica ispirata al fatto che bisogna tagliare le mani a qualunque logica di commistione nella gestione, nella fruizione del patrimonio da parte dei privati, perché questa cosa è figlia del letteralmente totalitarismo neoliberista. E oggi con grande piacere ho invitato l'autore di un libro che nasce proprio per rispondere a quel libro di Tommaso Montanari e al suo estremismo, e per parlarne con noi oggi sono appunto l'autore di questo libro, il cui titolo del libro è l'Italia agli italiani, istruzioni e ostruzioni, istruzioni e, ripeto, ostruzioni per il patrimonio culturale, apofonia vocalica tra I e O, editore Edi Puglia. È un libretto molto agevole, sono 150 paginette ma si leggono d'un fiato. L'autore si chiama Daniele Manacorda ed è insegna metodologia della ricerca archeologica presso l'Università di Roma 3. Buon pomeriggio e grazie Daniele Manacorda. Buon pomeriggio a lei. E insieme al professor Manacorda c'è una delle figure istituzionali a mio giudizio più interessanti per il suo pensiero, secondo anni, cioè Giuseppe Volpe, che è il presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici ed è ordinario di archeologia cristiana e medievale all'Università di Foggia. Buon pomeriggio professore. Buon pomeriggio a lei, con una piccola precisazione, il mio nome è Giuliano. Giuliano. Giuseppe Volpe è un nome importante purtroppo della storiografia. Mi ha beccato subito perché mi è partito ovviamente immediatamente. Certo, vabbè. Ma succede spesso. Questo testimonia anche degli miei anni, non sono proprio più un giovincello, perché oggi i giovincelli forse non saprebbero nemmeno chi è Giuseppe Volpe. Però detto tutto questo, Giuliano Volpe, mi scusi. Allora, Daniele Manacorda, io rifuggirò dall'idea di fare delle domande come se lei fosse contrapposto al libro di Montanari che ho citato. Mi interessa solo capire una cosa, cioè spiegare ai nostri ascoltatori, senza tecnicismi da MIBAC, da sovrintendenza, qual è il cuore di questo suo ragionamento sul perché individui privati eccetera, costituzionalmente in linea con quello che dice la Costituzione, dovrebbero essere chiamati dalla macchina pubblica a esercitare un ruolo di prima grandezza nella tutela, nella conservazione e nella fruizione soprattutto al patrimonio. Cosa vuole che le dica? In poche parole, molto semplicemente, mi sono fatto questa domanda: chi è il pubblico? E mi sono risposto: il pubblico siamo noi. E poi mi sono fatto la domanda: chi è il privato? E mi sono risposto: il privato siamo noi. È sempre di noi che si parla, noi cittadini, che naturalmente organizziamo la nostra esistenza in maniera diversa attraverso delle organizzazioni, delle associazioni, dei comportamenti che stanno nella sfera cosiddetta privata e altri che agiscono nella sfera cosiddetta pubblica. Per quanto riguarda il patrimonio culturale, in quale sfera agiamo quando ci occupiamo di patrimonio culturale? Questa è la domanda che mi sono fatta. Naturalmente, per rispondere a questa domanda bisogna rispondere ad altre domande, altrettanto basilari, che sono le domande: a che cosa serve il patrimonio culturale, che forse è la domanda prima che si fa qualunque cittadino e forse anche qualunque amministratore pubblico, e la seconda è: di chi è il patrimonio culturale? Andando alla ricerca di queste risposte ho trovato tutte le consonanze, tutti i punti d'incontro con quello che Tommaso Montanari e altri pubblicisti che si occupano di questo argomento scrivono e dicono da molto tempo, e al tempo stesso ho trovato anche quello che lì non trovavo e ho cercato di mettere in fila una serie di ragionamenti che mi spingono a dire: il nostro patrimonio culturale, se vogliamo veramente salvarlo e dargli un senso, dargli un ruolo, ha bisogno di una profonda innovazione, innanzitutto culturale, che poi si traduca in un'innovazione politica e amministrativa. Lei lo sa, professor Manacorda, che in realtà, come lei ha detto, il pubblico siamo noi, il privato siamo noi, anche la tesi degli iperstatalisti è dire: lo Stato siamo noi, quindi solo lo Stato deve fare e non i privati, più risorse allo Stato, e se non ci sono che escano fuori, santa miseria. Quindi in che cosa in realtà questa impostazione è diversa dall'iperstatalismo? È diversa in questo, che certamente si può dire: lo Stato siamo noi e in quanto tale, e quindi noi ci dobbiamo sentire rappresentati da ciò che lo Stato fa, impone, concede in questo campo. Allora partiamo dalla Costituzione. La Costituzione, quando impone di tutelare il paesaggio e di tutelare il patrimonio storico-artistico in un importantissimo articolo che è l'articolo 9, e lo impone nel suo secondo comma. Nel primo comma dice che la Repubblica ha come finalità quella di promuovere la diffusione della cultura e tecnica, scientifica, e quindi tutta la macchina amministrativa che in Italia da oltre un secolo funziona con luci e ombre anche molto importanti, che è volta alla salvaguardia di questo patrimonio, intanto è affidata alla mano pubblica in quanto raggiunga o non raggiunga la finalità prima, che è quella di diffondere la cultura, cioè di farlo diventare un elemento di ricchezza culturale di tutto il paese. Ha fatto questo lo Stato in questo secolo e passa? No. Beh, la Costituzione non parla di Stato, parla di Repubblica. Sappiamo bene, in un altro articolo della Costituzione, che la Repubblica è un concetto infinitamente più ampio. Infatti lei dice, chi cita l'articolo 3, cioè quelli che parlano solo di bene comune, dimentica o non ha letto o non è arrivato a leggere il 114 e il 118. Esattamente, si ha una concezione dello Stato come luogo in depositario di tutto il bene comune, di tutti gli interessi generali, che per carità gli Stati a questo dovrebbero volgere il pensiero politico dal 600 oggi, su questo si interroga, ma io non sono di quelli che butta a mare tutto, non sono di quelli che dicono che qualunque cosa sia nuova o diversa in quanto tale buona. Nel nostro sistema di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale ci sono state pagine bellissime che noi non possiamo dimenticare. Ah, certo. E non è in quel senso che va Si tratta di demonizzare tutto quello che è stato fatto dalle istituzioni del Ministero, poi ci mancherebbe altro. Si tratta di capire che lo Stato e per lui il Ministero e per lui gli organi centrali e periferici di un Ministero non solo da soli manifestamente non ce la fanno a svolgere il compito che gli viene affidato dall'articolo 9 della Costituzione, ma anche qualora ce la facessero sarebbe bene che fossero affiancati, non sostituiti, affiancati da una chiamata di tutte le energie positive del Paese che si pongano e percepiscano questo problema come un problema fondante dell'Italia in questo secolo. Esatto. Siccome io mi ritrovo perfettamente, avendo scritto da anni, per esempio, facendo i paragoni tra i regimi di incentivazione fiscale per gli interventi dei privati, le donazioni, i finanziamenti, esattamente a chi opera nel campo della tutela, della conservazione, della produzione del patrimonio culturale, ambientale, museale e così via, io penso che sia questa la giusta impostazione, quindi non dire solo il privato contro lo Stato, neanche per idea, un'idea del pubblico che non si identifica solo alla macchina statale. E a questo proposito io voglio leggervi, cari ascoltatori, una frase che, detta da un presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici, a me ha colpito, perché diciamo nell'amministrazione pubblica è forte la tesi di chi dice Stato, è un po' meno evidente che ci sia anche chi la pensa così. Allora leggo questa frase di Giulio Volpe, Giulio Volpe, perché ci possiate riflettere. Nell'amministrazione pubblica ai livelli di vertice c'è chi ragiona così. La frase dice così: il problema reale non si riduce solo all'aspetto economico e organizzativo, ma investe il cuore metodologico, culturale e politico, che riguarda anche l'assoluta necessità di separare la gestione dell'azione di indirizzo, controllo, valutazione, ancora oggi nelle stesse mani. Anche i recenti episodi concussivi, sia pur fortunatamente marginali, sono significativi campanelli d'allarme. Chi detta le regole, chi controlla, chi valuta, e naturalmente stiamo parlando dello Stato, non può anche gestire. E gli esempi di una concezione proprietaria, tra virgolette, del patrimonio culturale sarebbero numerosi. Al contrario, uno Stato forte e autorevole dovrebbe saper cedere quote di potere, svolgendo appieno la sua funzione di indirizzo, di definizione di regole certe, di procedure corrette, di standard qualitativi, nonché di controllo rigoroso e di seria valutazione. Ma dovrebbe sapere inoltre favorire processi realmente inclusivi nei confronti del mondo universitario, della ricerca, della cittadinanza attiva, dell'associazionismo, delle fondazioni di partecipazioni, certamente con le necessarie forme di indirizzo e monitoraggio. Quindi una concezione del pubblico, come vedete, che non è quella di dire solo Stato uguale bene comune. Allora, io vi ho letto questa frase perché, quando torniamo dopo l'informazione sulla stradale tra 60 secondi, chiediamo al professor Giuliano Volpe, presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici, pensandola così, se è, per così dire, domanda scorretta, maggioritario minoritario all'interno dell'amministrazione pubblica italiana dei beni culturali e paesaggistici. A tra un minuto. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta La la versione di Oscar. Eccoci tornati a parlare di questo libro che pone una questione fondamentale, quella se sia solo lo Stato o la Repubblica, quindi tutti noi, compresi i privati, gli individui, a doverci impegnare con le forme organizzative più giuste per la tutela, la conservazione, la fruizione del patrimonio culturale e ambientale del nostro paese. Il libro di cui stiamo parlando è L'Italia agli italiani, istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale, l'autore Daniele Manacorda, che abbiamo sentito prima. E vi ho letto prima della pausa una frase che a me ha colpito molto del presidente del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, Giuliano Volpe, vediamo se questa volta non sbaglio il nome, Giuliano Volpe, e a me ha molto colpito. Ma quella frase, professor Volpe, è una frase che lei si sentirebbe di dire esprime l'indirizzo maggioritario dell'amministrazione pubblica? Probabilmente non ancora, ma il fatto che io in questo momento sia Presidente del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici qualcosa vorrà dire, appunto, perché, e tra l'altro io ricordo che io sono in Consiglio Superiore su designazione della Conferenza delle Regioni Italiane, cioè io sono rappresentante delle regioni e poi il ministro Franceschini mi ha designato presidente, e il fatto che mi abbia designato presidente evidentemente dimostra una certa convergenza di visione, perché il ministro Franceschini, anche con un atti importanti come l'art bonus, come cominciando anche con queste forme finalmente di incentivazione per chi sostiene, investe nel campo dei beni culturali, ha voluto dare delle indicazioni nette, così come il bando per i direttori dei 20 principali musei italiani, con un bando internazionale e con un'autonomia gestionale che verrà data a questi musei. Non c'è ancora una prevalenza probabilmente, però ecco, questo è uno dei meriti del libro di Daniele Manacorda, il fatto di cominciare a smuovere un po' le acque, a introdurre un po' di aria fresca e anche ad incrinare quella sorta di egemonia culturale che si era venuta formando soprattutto negli ultimi tempi, per cui chi non dice quelle cose politicamente corrette, per cui appunto è solo lo Stato che deve occuparsi di patrimonio culturale, con tutte le degenerazioni di cui si è parlato anche poco fa con Manacorda, ecco, è un traditore, è qualcuno che non tiene ai bisogni e alla cura del patrimonio culturale. Così non è, perché la nostra idea di patrimonio culturale oggi è molto diversa, è molto più complessa, è pervasiva. Noi parliamo continuamente di patrimonio diffuso, e allora una situazione così complessa non può essere affrontata in maniera semplicistica, serve l'apporto di tutti. E quando si parla di privati, come diceva poco fa Manacorda, noi parliamo di tantissime realtà. Guardi, io mi limito a citarne solo un paio emblematiche. Io sono pugliese, quindi mi riferisco in particolare delle situazioni dell'Italia meridionale, dove, come il rapporto Istat ultimo ha ulteriormente certificato, il patrimonio culturale è ancora sotto valorizzato e non esprime pienamente tutte le sue potenzialità. Ecco, noi abbiamo situazioni come a Napoli, una cooperativa di giovani sull'iniziativa di un prete molto bravo, Don Antonio, ha preso in gestione le catacombe di San Gennaro al quartiere Sanità, uno dei posti più degradati, simbolo forse del degrado di Napoli, e le ha restituite alla cittadinanza, cioè ora sono uno spazio ben utilizzato, vissuto, con la possibilità di effettuare delle visite guidate e dando lavoro anche a questi ragazzi che altrimenti avrebbero avuto destini probabilmente non particolarmente felici. Oppure a Canosa, una città della Puglia dove l'archeologia è stata da sempre ritenuta un fastidio, un impedimento, ad un'idea anche sbagliata di sviluppo, per cui si costruiva distruggendo. Ecco, lì ora c'è una fondazione costituita da 1200 cittadini che ha preso in gestione i siti archeologici di quella città, che ora sono visitabili, sono molto ben tenuti, sono curati. Ecco, il privato si manifesta anche in mille modi diversi per poter anche far funzionare quello che invece sarebbe condannato al degrado, all'abbandono, invece per poterlo far restituirlo ai cittadini innanzitutto, e anche, perché no, realizzare condizioni di lavoro, di benessere, di possibilità di non andare via, di non dover emigrare per disperazione, invece potersi magari mettere in atto le proprie competenze acquisite in anni di studio, inventandosi anche un lavoro. Ci sono tanti bravissimi giovani formati con una grande competenza. Le faccio una domanda, perché a proposito del fatto che in Italia ci sono tantissimi siti che grazie appunto alle forme di associazionismo, l'intervento dei privati, sono aperti, che altrimenti lo Stato non potrebbe aver recuperato e tenere aperti. Nel libro ce n'è una lunga lista, voglio dire, dal coinvolgimento dei cittadini di Parma al risanamento dell'ospedale vecchio di Parma, da quelli di Pisa a San Paolo a Ripadarno, da al Castello di Venaforo, lì stiamo parlando dell'Associazione Nazionale Carabinieri, e così via. Però detto tutto questo, spesso quando si tratta proprio a proposito di, per esempio, restauratori o giovani archeologici che non trovano spazio all'interno dell'amministrazione pubblica, quando si tratta di ipotesi di convenzioni tra le sovrintendenze e queste forme di autoimprenditorialità giovanile, insomma, l'amministrazione, professor Volpe, c'ha il freno tirato, o mi sbaglio? Lo so bene, ma lo so bene. E per questo, quando quel pezzo che lei ha letto, io voglio non uno Stato che, come dire, si fa da parte e che si disinteressa. Tutt'altro, io voglio uno Stato che intervenga fortemente in questi ambiti, come quello del patrimonio culturale, quello dell'istruzione, quello della sanità. Deve intervenire, deve farsi carico, ma deve promuovere l'iniziativa. Cioè, la vera forza di uno Stato, la vera autorevolezza di uno Stato sta nella sua trasparenza, nelle sue regole chiare e nel fatto di essere un enorme spin-off, una capacità di mettere in movimento tutte quelle energie che invece normalmente oggi spesso vengono depresse, vengono bloccate. Ma lo so per certo, perché conosco le iniziative dei miei stessi allievi o di persone, di giovani che cercano di inventarsi appunto anche delle attività imprenditoriali e che invece di essere supportati in questo spesso devono, certo, superare mille difficoltà, a volte caotiche, del tutto incomprensibili. È molto legate a quello che anche lei indicava poco fa e che io denuncio, e cioè una concezione proprietaria del patrimonio culturale, cioè il patrimonio culturale dello Stato. Lo Stato viene inteso addirittura con un solo ministero, no? Perché poi ci sono i problemi anche tra pezzi dello Stato, certo. I rapporti non buoni tra università e soprintendenze dimostrano che poi alla fine, quando si parla di Stato, poi non si parla nemmeno nella sua interezza di tutte le componenti dello Stato. E poi da uno Stato si finisce a un ministero, poi si finisce al singolo funzionario che si finisce per sentirsi proprietario del patrimonio culturale del territorio di cui si occupa. Allora, io mi auguro che la lettura, che consiglio a tutti, di questo libro, L'Italia degli Italiani, di Daniele Manacorda, faccia riflettere tutti coloro che pensano che il patrimonio italiano è destinato al declino per mancanza di risorse. Non è così. Bisogna intendersi su come fare. Io ringrazio anche Giuliano Volpe, che con il suo impegno all'interno delle istituzioni fa capire che una strada di apertura alla società, non solo alla struttura statale, è necessaria. Io, essendo un fan e amico di decenni del professor Carandini, un grandissimo archeologo cui dobbiamo tantissimo sulle riscoperte archeologiche dell'antica Roma, la Roma protourbana, tante volte con lui ci siamo posti il problema: ma vedremo mai l'area archeologica di Roma, i fori, con una gara internazionale affidata agli specialisti della visione tridimensionale con un GPS per offrire a chi va lì una guida tridimensionale, assonometrica, di com'era nel primo secolo, nel terzo secolo dopo Cristo, nel quinto secolo? Si può fare, in realtà tecnologicamente non basta nulla, bisogna superare un bel po' di veti per una concezione proprietaria e un po' arcaica di che cos'è la valorizzazione di questo strepitoso patrimonio. Grazie a Daniele Manacorda, grazie a Giuliano Volpe, e voi elettori campani rifletteteci bene sulla lista degli impresentabili, ma e soprattutto appuntamento domani dalle 10 alle 12, siamo in diretta al Festival dell'Economia a Trento, non mancate!